la guerra agli oppressori, la pace agli oppressi, la guerra agli oppressori, e vezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda del suo Guglielmo Tell. Insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne di cinesi. I cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al suono. E allora direi che ci possiamo salutare così, no? Cina. Ah, c'era una cosa. Ma è l'inno quello proprio. Non so che cos'è in realtà. Stavo guardando l'inquadratura. Allora, è perfetta. Quindi tu? Ma dove l'hai trovato questa? Sei tu questo. Ma che io? Questo è che è Franco. Ma davvero? Franco Di Matteo, non la riconosci la voce? È venuto giorni fa con me. Siamo andati a fare il coro a cantare a dietro al giardino zoologico. A cantare. Adesso stiamo a fare Gloria dei Vivaldi, no? Stiamo a fare queste canzoni di opera. Vabbè, sempre impegnato Mario su tutti i fronti artistici, sì, diciamo. Ma dobbiamo fare il Gloria, abbiamo fatto il Magnificat e il Credo. Ah, c'è tutto, credo, al completo. credo in un Deo. Ah, mi viene un po' per culo, però mi piace impararmi la voce, no? Vabbè, salutiamo allora. Sì. Cina, no, non ce l'ho la Cina. Ah, la faccio io. E dai. Stelle contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorna l'appuntamento con le cene di Scarceranda ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino. Venerdì 5 novembre, porte aperte dal carcere. Ore 19:30, aperitivo in enoteca. Ore 20:30, cena Scarceranda. Alle 22:30, proiezione del film Hanno morto un ragazzo di Filippo Vendemmiani. A seguire selezioni musicali. GSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 Celle. Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.

Allora, buongiorno a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Sono le 15 e 10 e 11. Oggi abbiamo iniziato con 5 minuti di ritardo. E allora, appunto, ancora e di nuovo un saluto e una buona giornata a tutti e tutte, e un augurio di buona libertà per coloro che ne sono privati. E dunque iniziamo dando un breve scorso alla cronaca, poi continueremo questa riflessione un po' storica che stiamo cercando di fare sulla nascita delle categorie che riguardano il sistema penale e quindi anche il carcere, ossia la nascita del concetto di delinquente, di crimine, e questi spazi sociali che sono stati creati relativamente di recente e che appunto oggi sono diventati appunto un'acquisizione pressoché totale delle persone attraverso le quali facciamo dei ragionamenti che in realtà falsano completamente la realtà materiale. Comunque partiamo prima dalla cronaca. Ovviamente il dato del sovraffollamento continua a farla da padrone, le morti in carcere che sono diventate talmente frequenti che mentre fino a qualche tempo fa c'era una certa presenza di queste notizie sui giornali, adesso addirittura non se ne parla nemmeno più, è talmente quasi ovvio, quasi banale, diciamo, la presenza delle morti in carcere. E allora l'ultima morte è avvenuta nel carcere di Bologna qualche giorno fa, e c'è stato alcuni commenti hanno detto addirittura non se ne parla nemmeno più, perché praticamente pare che siano diventati una cosa di una ovvietà spaventosa. C'è poi un dato di fatto abbastanza significativo della situazione in cui versano le carceri oggi, carceri che sono sempre comunque siano affollate o meno, sono sempre dei luoghi in cui si distrugge la personalità, la fisicità, tutto l'ambito creativo delle persone. Questa volta, questo periodo, però, in questo paese è particolarmente feroce l'aggressività del carcere dovuta al sovraffollamento, ma non solo, soprattutto dovuto al fatto che chi sta in carcere ha una netta percezione, tra l'altro abbastanza reale, non fittizia, la percezione è che si sente l'ostilità di tutto il mondo, di tutto il mondo esterno, di tutta la società contro di lui. E questo lo notavano alcuni attenti giornalisti in questa settimana, quando appunto sono avvenute le ultime morti, ormai nemmeno compaiono più sui giornali, dicevano appunto c'è questa sorta di assuefazione alla situazione drammatica, e addirittura c'è stata, no? Questa è una nota che dovrebbe far riflettere molte persone, cioè in questo periodo c'è un, come dicono molti commentatori politici, c'è una dura battaglia, diciamo così, tra maggioranza e opposizione in questo paese. Così sembra, perché se andiamo a vedere in realtà i dati concreti, invece questa battaglia non c'è affatto, sembra che ci sia, ed è sui comportamenti di questo, di quel personaggio, molti spostati sul terreno della cosiddetta legalità, cioè che una parte accusa l'altra di non essere rispettoso della legalità, di aver fatto imbrogli, impicci, ma non c'è sul terreno di quelle che sono le manchevolezze di governo. Difatti è abbastanza, tutti coloro che ci ascoltano credo che se lo ricordano bene, a gennaio dello scorso anno, tra un paio di mesi è passato un anno, a gennaio del 2010 il Parlamento italiano, quindi non un gruppo di amici al bar, il Parlamento italiano votò una mozione presentata, quindi votata pressoché all'unanimità, maggioranza e opposizione, preparata dal Ministero della Giustizia, volta a definire la situazione delle carceri un'emergenza. Perché? Perché la relazione di questa mozione presentava i dati del sovraffollamento, però allora erano molto inferiori adesso, allora c'erano 4-5 mila persone a gennaio del 2010 in meno c'erano molte meno morti, eppure si diceva, giustamente, perché aveva già superato la soglia di sicurezza, si diceva questa la situazione delle carceri è drammatica, è talmente drammatica che bisogna fare qualcosa, e il Parlamento, dopo un dibattito, individuando appunto la difficoltà di vita portata da alcuni dati dei detenuti, stabilì il dato di emergenza. Quando il Parlamento italiano, ma non solo italiano, definisce una situazione sociale d'emergenza, vuol dire che sono possibili da parte del governo, degli organi esecutivi, quindi governo, ministero ed altro, una serie di misure anche di urgenza, senza dover attraversare tutto l'iter burocratico che ha un provvedimento per essere approvato, per risolvere la questione. Difatti ne discutemmo da questi microfoni, ricordate bene, no? Molti pensarono che appunto si sarebbe messo mano allo svuotamento del carcere, stante il fatto che il sovraffollamento era grave e che il Parlamento aveva votato una mozione che diceva che la situazione carceraria è uno stato d'emergenza, quindi si può intervenire d'urgenza e con provvedimenti anche abbastanza esecutivi, immediatamente esecutivi. Difatti il ministro Alfano propose quel decreto, che qualcuno prima come decreto lo propose, appunto perché gliel'autorizzava la mozione approvata dal Parlamento di stato d'emergenza delle carceri, un decreto che si poteva fare legalmente, perché appunto se c'era situazione di emergenza si può fare un decreto chiamato svuota carceri. Era quel decreto, ne abbiamo parlato mille volte, che diceva che per coloro che avevano meno di un anno da fare di carcerazione, quindi meno di 12 mesi, potevano andare agli arresti domiciliari o in altre misure alternative, può essere comunità, secondo, per i tossicodipendenti o altro, comunque fuori dal carcere. Ne sarebbero usciti, all'inizio fecero un calcolo, 10-12 mila, quindi un discreto secondo i livelli. Allora c'erano 64 mila detenuti, quindi sarebbero andati su livelli insomma perlomeno sopportabili. Poi questo decreto diventò disegno di legge, quindi discussione in commissione, discussione in aula, l'aula lo rimandava alla commissione, la commissione lo rimandava all'aula. Passato alcuni, intanto passavano i mesi e non succedeva niente, il carcere continuava a crescere. Passato ancora tempo, qualcuno propose l'approvazione legislativa, che sarebbe l'approvazione direttamente in commissione su delega del Parlamento. Il Parlamento diede questa delega alla commissione, ma la commissione non l'approvò. Vennero portati mille tantissimi emendamenti, insomma, per farla breve, tanto l'avete seguita, ne abbiamo parlato tutte le settimane dal gennaio 2010 ad oggi, questa legge o decreto svuota carceri sta ancora nel cassetto, non è successo niente. È successo qualcosa, però ha prodotto quella mozione sull'emergenza carceri, ha prodotto semplicemente il fatto che le pratiche per la costruzione di nuove carceri siano state agevolate, sburocratizzate, rese più elastiche. In realtà interessava quello, perché così come avrebbero voluto fare il decreto cosiddetto svuota carceri, questo per mandare agli arresti domiciliari chi aveva da fare meno di un anno, quindi avrebbero potuto approvare in tre giorni il decreto, lo approva il Consiglio dei Ministri e entro una settimana va alla firma del Presidente della Repubblica ed è esecutivo, quindi ci vuole al massimo una settimana, non di più. Invece appunto è passato 12-10 mesi e non è successo niente. Invece le norme per ora la progettazione, hanno dato tanti di quei soldi per la progettazione di nuove carceri, carceri galleggianti, carceri nelle isole, carceri di qua, ristrutturazione eccetera, che già hanno dilapidato, a quello gli serviva di costruire un grosso business. E allora ecco quella riflessione che faceva pochi purtroppo giornalisti, dicevano non è vero che c'è contrapposizione tra maggioranza e opposizione, perlomeno non c'è sui dati reali, non c'è nessuno scontro tra maggioranza e opposizione sui dati reali, per questo la gente è completamente disaffezionata alla battaglia politica, perché la battaglia politica si svolge invece sulle questioni comportamentali, quello fa lo sporcaccione, quello un po' di più, quello un po' di meno, quello ruba di più, quello ruba di meno, che poi tutto sommato interessa poco alla gente, perché poi lo danno per acquisito che siano sia che rubino, che facciano gli impicci loro, si sa, i potenti questo fanno più o meno da sempre, e invece non c'è uno scontro sulla politica. E questo giornalista è una giornalista ma non di queste firme purtroppo famose, perché le persone intelligenti in Italia non diventano famose. Diceva: strano che l'opposizione aveva una carta così importante da usare, praticamente la mancata un progetto del governo che invece era completamente che l'aveva completamente lasciato cadere, cioè questo alleggerimento della situazione di affollamento carcerario. E su quel terreno dice: non c'è stata battaglia politica. Strano che l'opposizione, veramente strano che l'opposizione non utilizzi una cosa importante, perché su questo il governo ci si era giocato molto, perché era stato il governo che aveva fatto approvare al Parlamento lo stato di emergenza, che è gravissimo. Guardate, non è una cosa normale che il Parlamento decreti che in quel settore sociale c'è la situazione di emergenza, non è normale. In uno stato democratico è veramente eccezionale quando il Parlamento decreta che c'è la situazione, perché a quel punto si può far uscire fuori l'esercito, cioè si mettono in moto tante dinamiche eccezionali, appunto. Ebbene, dice, è possibile che l'opposizione non ha colto questa grande carta che ci aveva da giocare contro il governo sulle carceri, per metterlo con le spalle al muro. Evidentemente non c'è opposizione in questo paese. Su alcuni dati centrali, per esempio il lavoro, per esempio il carcere, la disoccupazione, sul welfare, sui temi centrali che poi diciamo sono quelli che riguardano la vita o la non vita delle persone, delle classi non abbienti, delle classi basse, delle classi proletarie, in realtà non c'è un'opposizione in questo paese. becomes exploring ignorance in the name of love. Stop before you drop, because that's just the way it was. Please don't justify me. Allora, vediamo altri fatto grave è successo, non tanto il fatto, ma l'utilizzo che si sta facendo del fatto. Il fatto è una cosa ovvia, normale, in queste situazioni, che tra l'altro è sempre successo in carcere. Cioè, un detenuto, diciamo, ha aggredito una guardia, ma nemmeno così, niente di che. Così, il fatto ve lo leggiamo, come è venuto da questa agenzia PICOM. Ieri un assistente della polizia penitenziaria di Ivrea è stato aggredito da un detenuto di 26. Cioè, lo denuncia l'OSAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. L'episodio è accaduto intorno alle 14.30. I poliziotti, i secondini quindi, stavano trasferendo un gruppo di detenuti dal primo al terzo piano della stessa struttura, lo stesso carcere, no? di questo carcere di Ivrea. Ma questo ragazzo, questo detenuto di 26 anni, si è opposto. Prima si è aggrappato ai cancelli del piano terra, poi quando è stato accompagnato in una saletta vicino all'infermeria ha iniziato a sbattere la testa contro il muro e poi ha tirato una testata ad un agente in pieno viso, eccetera. Cioè, il poliziotto ha avuto questa testata, è stato ricoverato, dice qui, con inclinazione al setto nasale, vabbè. Comunque, e su questo vabbè, un fatto che succede, sono sempre successi, anzi anche più gravi. Però che cosa ne tira fuori questo sindacato LOSAP e lo propone al governo ed ha raccolto anche molti consensi? Che cosa? Una cosa abbastanza nuova nella situazione penitenziaria italiana, e non solo italiana, il fatto di introdurre le manette per gli spostamenti dei detenuti all'interno dello stesso istituto. Ora, qui si rompe un dato che è vecchio, anche questo, di circa oltre 100 e passa anni, insomma, risale all'Ottocento, il fatto che una volta nell'istituto carcerario il detenuto non può essere legato, essendo già ristretto, ovviamente impossibilitato quindi ad usare la propria libertà, perché appunto c'ha le mura, c'ha la cella, in certi momenti può andare al passeggio ma non ha la possibilità di muoversi. Qualunque altra misura restrittiva non è vietata, questo dice la legge italiana e che tutte le leggi più o meno europee, insomma, ma non solo le europee, di gran parte delle carceri. Cioè, il carcerato, poiché è limitato nella propria libertà, quella limitazione prevista appunto dall'ordinamento penitenziario, cioè tante ore in cella, qualche ora al passeggio, alla doccia, eccetera, oltre quelle limitazioni, che sono ovviamente tantissime, non se ne possono mettere altre. Quindi non si può legare il detenuto in carcere. Tant'è vero che quando si fa una traduzione, cioè un trasferimento da un carcere all'altro, il detenuto va in matricola, tranquillo, senza manette, in matricola gli agenti di scorta gli mettono le manette e lo fanno uscire con le manette. Quindi soltanto per l'uscita, per quando stai fuori dal carcere per essere trasferito al tribunale oppure ad un altro carcere, si usano le manette. All'interno degli spostamenti all'interno del carcere non si possono usare, perché appunto c'è questo principio che, poiché gli togli già tutta la libertà, non gliene puoi togliere altra. Cioè, in cella quelle girate per quei pochi metri quadrati deve essere possibile, muovere le mani deve essere possibile, altrimenti diventa una limitazione eccessiva. Adesso invece, utilizzando questo fatto, che è un'aggressione di un detenuto a un poliziotto penitenziario, quindi a una guardia, si vuol proporre, e di fatti hanno mandato una lettera a Franco Junta, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del DAP, il ministro Alfano, perché verso i detenuti violenti, che noi bisogna definire quest'altra categoria, venga consentito alla polizia penitenziaria l'uso delle manette per gli spostamenti interni all'istituto penitenziario, interni al carcere. Sarebbe una innovazione negativa, chiaramente spaventosa, di oltre 150 anni e molto brutta. Cioè, si torna indietro veramente alla barbarie, perché poi definire quali sono i detenuti violenti è totalmente arbitrio delle guardie, e quindi diventerebbe una cosa molto molto brutta. E questo, come dire, vedete che le notizie, la cosiddetta cronaca, no? L'abbiamo scoperto nell'altra parte, come la cronaca ha creato, ha inventato di sana pianta l'esistenza di una, di un'area sociale chiamato il crimine, la delinquenza, che non c'è ovviamente, è una costruzione inventata, no? E la cronaca nera ha molto utilizzato, ecco, questo fatto di cronaca è stato, viene utilizzato come tutti i provvedimenti restrittivi della libertà di tutti sono stati prodotti, per esempio il pacchetto sicurezza ed altri sull'onda, cioè sono stati prodotti perché vogliono raggiungere questo scopo di stringere sempre di più la libertà dei cosiddetti cittadini che stanno diventando sudditi sempre di più, e però utilizzano, quando devono farla passare, un provvedimento di questo tipo, dei fatti di cronaca eclatanti su cui la cronaca nera ci va molto pesante e creano uno stato d'animo da parte della cittadinanza in grado di accettarle. E qui si vuol creare questo fatto normale di cronaca, una piccola aggressione. Questo ha dato, tra l'altro, prima le capocciate al muro, quindi evidentemente non era proprio agitato molto, poi una di queste capocciate è andata a finire sulla faccia della gente, non sarà mica, e vogliono introdurre le manette in carcere, che sarebbe una rottura di quel minimo di garanzie che ancora esistono nel circuito penitenziario. Songs too, some of them, you know, they don't even really have titles yet, you know, so if you have any suggestions, just you know, raise your hand, cause, so I call them like a line in the song, you know, this one we refer to as Adam Lives in Theory. And when I refer to Adam, I'm really speaking about all of humanity, you know, without exception of anybody, you know. And I know that a lot of the content in the songs is very heavy, you know, but see, fantasy is what people want, but reality is what they need. And I've just retired from the fantasy part because I realized that i dischi si incantano. E dunque, un'altra notizia, poi chiudiamo con la cronaca. Il governo britannico pensate un po', questo è divertente, perché il governo britannico, sapete, in Gran Bretagna da qualche mese è al governo un governo appunto di destra, e i conservatori hanno vinto, Cameron è il capo dei conservatori che ha vinto le elezioni e quindi è il capo del governo. È furioso, dicono i giornali, è esasperato e furioso, questi due termini. Perché? Perché è stato costretto dalle multe molto gravose che la Comunità Europea metteva nei confronti dell'Inghilterra, tanti milioni di euro, diversi milioni di euro da risarcire ogni anno, e siccome sta in cattive acque la bilancia dei pagamenti inglese, chiaramente Cameron ha dovuto ingoiare il rospo, ma pare che sia un rospo grosso per lui. Qual è questo rospo grosso che fa così diventare esasperato e furioso il buon Cameron? Allora, la Comunità Europea, tra le tante baggianate che ha fatto, perché è stata una comunità fatta appunto sull'euro, dai banchieri, dagli gnomi della finanza, da questa gentaccia qui, e hanno fatto per darsi il belletto. Sapete come si fanno quando uno esce di casa? A casa a volte sta in pigiama, in tuta, no? Scomodo, in ciabatte. Poi quando esce di casa si dà una sistemata, una pettinata, si mette qualcosa di pulito. Così ha fatto l'Europa, ha fatto un'Unione Europea di porcheria. Poi però si sono dati un belletto e hanno detto: mettiamo pure delle norme di rispetto dei diritti umani. E una di queste è che la situazione penitenziaria delle vari paesi dell'Unione Europea devono rispettare dei criteri. Nessuno li rispetta, chi ne viola uno, chi ne viola un altro, e siccome non ha altro potere, non ha nessun potere la Comunità Europea se non quello di mettere multe, non è che ha potere di imporre a un governo di fare delle cose, però mette delle multe molto salate con cui ci finanzia poi una serie di altre cose. E l'Italia per esempio paga molte multe, perché l'Italia c'ha l'isolamento, è vietato l'isolamento, a qualunque titolo tenere un prigioniero in isolamento è vietato, così come sono vietate tante altre cose che il governo italiano attua nelle carceri, e così come l'ergastolo, così sono tutte cose vietate dai diritti umani, cioè da questa cosa, da questa costruzione che è molto formale. Ebbene, essendo vietata, appunto, l'Unione Europea mette delle grosse multe. La multa che metteva all'Inghilterra era perché in Inghilterra c'era una norma vecchissima, proprio vecchia, credo nell'Ottocento risalisse, addirittura a 140 anni fa, mi pare. Sì, 140 anni fa risaliva questa, quindi alla seconda metà dell'Ottocento, questa norma. Per coloro che avessero una condanna in Inghilterra, che avessero subito una condanna superiore ai 4 anni, non potevano votare. Gli era escluso il diritto di voto. E chiaramente è una cosa che prima c'era per tutti, no? I delinquenti abituali o comunque i delinquenti venivano esclusi dal voto. Poi con le lotte del movimento operaio, dei diritti, insomma con tutto il Novecento, che è stato il grosso secolo dei diritti in qualche modo, anche dei massacri e delle guerre, però insomma qualche diritto è venuto avanti, e questa cosa si è tolta. E quindi a meno che non ci sia nella sentenza, quando ti danno una sentenza, o se c'è scritto in sentenza per particolari reati, tipo per esempio i reati politici eccetera, che tu vieni anche escluso dal diritto di voto, però se non è previsto in sentenza, l'amministrazione penitenziaria, quindi il governo, l'esecutivo, non può togliere il diritto di voto. Infatti nelle carceri italiane si vota, molti detenuti votano perché hanno avuto una condanna all'interno della quale non è previsto la perdita del diritto di voto. Gli ergastolani lo perdono automaticamente, ma anche alcune condanne pesanti, però non tutti chiaramente. Infatti durante il periodo elettorale nelle carceri italiane c'è questa bella scenetta, si mettono le cabine elettorali con tutta la commissione elettorale, tutte queste persone divertenti, e si continua questo rito della democrazia eccetera. Però insomma l'elemento quindi è questo. Ora l'Unione Europea ogni anno gli diceva: guarda, lo devi togliere questa boiata perché è una cosa indegna, è proprio barbara. L'Inghilterra non lo toglieva, ma nemmeno i governi laburisti l'hanno tolto, quindi non è che facevano finta orecchie di mercante e pagavano questi decine di milioni di euro che insomma ogni anno, che crescevano, perché ovviamente la sanzione che fa la sanzione economica cresce su di sé. Io ti dico, io Commissione Europea ti dico: devi levare questa abominio, e ti metto, che ne so, 100 milioni di euro di multa, tu non la levi, l'anno prossimo te ne metto 150, non la levi te ne metto 200, e così via. A un certo punto il governo Cameron, che sta in ristrettezze, si è visto strangolato da questa multa, ha detto: vabbè, tocca cedere. Nonostante, l'ha detto pubblicamente questa brava persona, sono esasperato e furioso, ma devo accettare per evitare rischi economici, così ha detto. Era l'ultima cosa che volevo fare. È un duro questo ragazzo qua, viene dalle classi abbienti, lui è un figlio di nobili, quindi un gran personaggio questo Cameron. È un duro, è l'ultima cosa che volevo fare, è un film western appunto, ma non potevamo continuare a rinviare una decisione in questo senso, altrimenti avremmo corso il rischio di far pagare il tutto al contribuente. Taratata, è la musichetta di fondo. E insomma devono levare questa norma boia, perché anche quei paesi che poi dicono di voler portare la democrazia e la libertà del mondo hanno tanta di quella rogna in casa che francamente, insomma, non gliela invidiamo davvero. E dunque, allora è l'ultima, questo è l'ultimo tratto, mancano 20 minuti alle 4 e riprendiamo il filo di questo ragionamento che stiamo facendo da un po' di settimane sul costituirsi dello spazio sociale in ogni società del in cui si costruiscono le categorie del penale. Del penale sono perché possa esistere uno spazio giuridico e anche sociale penale, devono esistere le categorie di chi ricoprirà, rivestirà quello spazio. Quindi sì, che la prima cosa che si costruisce è la categoria del criminale, del delinquente, come spazio sociale, non più il singolo, no? Abbiamo visto il passaggio, prima era un singolo, una persona viola una legge, cioè ruba, rapina, fa una cosa, aggredisce un'altra persona, un bene o una persona, e fa un torto a chi aveva quel bene o quella persona. Fino a un certo punto è stato così. Con il 700 si crea lo spazio pubblico sociale, quindi il potere che si costituisce questa nuova classe, la borghesia, dovendo rendere tutto pubblico perché ha bisogno della veicolazione del commercio, quindi sono i mercanti, gli impresari che sono il centro di questa classe e che appunto hanno bisogno di avere tutte categorie pubbliche perché il mercato deve essere appunto più pubblico possibile, più aperto possibile. Quindi si dice che chi fa un reato, chi aggredisce una persona, non fa un torto a quella persona, ma fa un torto a tutta la società. Quindi la società, il giudice, il poliziotto, il carceriere operano nei confronti di quella persona che ha fatto quel reato, quel crimine, non perché per difendere l'aggredito, ma perché questa persona ha fatto un torto all'intera società, all'ordine sociale. Quindi nasce la figura del criminale, del delinquente come categoria di soggetti sociali che attentano all'ordine sociale, alla sicurezza sociale. Abbiamo visto come si costruisce. Abbiamo visto il ruolo della cronaca nera, della cronaca che nasce come cronaca nera, nasce addirittura prima dei giornali, molto prima dei giornali. La cronaca nera utilizza come veicolo questi foglietti in cui ci raccontano le storie di quel fatto, di quell'altro fatto, rendendole socialmente significative. Cioè una persona che aggredisce un'altra persona non è un fatto privato di quei due, ma la cronaca nera tende a farlo diventare un fatto sociale, socialmente valido, cioè il fatto che di quell'aggressione anche io, cittadino che sto a 100 km di distanza o che non so manco chi sono quei due, che non mi frega niente di quei due chi sono, mi vedo interessato a questo fatto di cronaca. La cronaca nera serve a veicolare, a creare questo spazio pubblico di attenzione al fatto singolo, al fatto privato, cioè l'immissione del pubblico dentro il privato rispetto appunto al penale, alla cosa. Bene, e quindi questo l'abbiamo già visto. A questo punto è necessario, quindi c'è la categoria delinquente, c'è il veicolo che è la cronaca nera, la norma c'è già, no? Si tratta di identificare chi sono i potenziali, prima ancora i delinquenti sono i criminali, sono quelli che hanno fatto il crimine, no? Quelli che hanno violato una legge, e io li ritengo nemici della società perché non hanno aggredito Tizio o Caio, ma hanno messo in discussione l'ordine sociale. Bene, però devo fare un altro passo, dice il potere di allora, perché devo individuare non solo coloro che hanno già fatto il reato, ma quali sono potenzialmente coloro che possono fare questo reato. Nel senso, quali sono le classi pericolose, quelle che possono attentare, che comunque dalle cui fila escono coloro che attentano all'ordine sociale, quindi che fanno le rapine, i furti, eccetera, eccetera. E quindi nasce la categoria delle classi pericolose. Ora, il problema è questo, che mentre la categoria dei criminali, dei delinquenti, diciamo è abbastanza obiettiva, coloro che hanno fatto una violazione di legge, quindi è individuabile facilmente, la cronaca nera sono i fatti comunque che succedono, raccontati sicuramente malamente e come si vuole, però sono comunque fatti che hanno un elemento materiale. Ma individuare la pericolosità sociale, cioè quali sono i gruppi sociali da cui può provenire un pericolo a questa società, perché la società, l'ordine sociale prevede non soltanto la punizione di coloro che attentano all'ordine sociale, ma anche una prevenzione. Cioè dice, io ordine sociale mi voglio prevenire, cioè voglio essere sicuro al 100% che non vengo messo in discussione. E allora, oltre tutte le leggi che si creano per vietare l'opposizione politica, oppure consentite alcune opposizioni e altre vietate, quindi sul piano politico, per evitare quelli che esplicitamente vogliono cambiare l'ordine, no? E sono le opposizioni politiche che in genere vogliono cambiare quelle di trasformazione sociale, chiamate rivoluzionarie come volete, che vogliono cambiare gli assetti sociali, e quelli, vabbè, venivano già da sempre, sono stati uccisi, massacrati, buttati via, cioè. Ma bisognava trovare anche socialmente chi vuole mette in discussione l'ordine sociale, proviene da alcuni settori, da alcuni gruppi sociali, e allora si sforzano a andare a individuare le classi cosiddette, le classi pericolose. Chi sono quei soggetti che, anche se non hanno ancora fatto niente, sono potenzialmente, esprimono una pericolosità sociale? Punto di domanda. E qui mettono all'opera, siamo all'inizio dell'Ottocento, inizio metà Ottocento, un po' in tutta Europa, si mettono alla cosiddetta al lavoro le migliori menti. Si fa per dire, perché quello che hanno prodotto le cose più cialtronesche, ma anche da un punto di vista scientifico, in realtà si doveva definire una categoria che non ha nessuna base di scientificità. Che cos'è la pericolosità sociale? Quali sono le classi pericolose? Come fai a dirlo se non ti inventi? E qui si sono inventate le cose più strane. E intanto hanno cominciato a individuare quelle facilmente individuabili, per esempio gli zingari, la malavita organizzata, ecco, questi gruppi sociali già esistenti, e quindi sono cominciati a nascere gli studi sulla camorra, sulla mafia. In realtà questi studi di allora, dell'Ottocento, erano molto tirati per i capelli, cioè non si metteva in luce la mafia quella che era, cioè una struttura economico-sociale di controllo del territorio, di controllo del lavoro, di controllo della, anch'essa della stabilità sociale, che faceva casomai in alternativa allo Stato, oppure invece, perché lo Stato mancava, e che però appunto otteneva lo stesso scopo di mantenere l'ordine sociale, l'ordine gerarchico e così via, o la camorra, che invece era sostanzialmente un sistema di mercato libero dai lacci e lacciuoli delle norme, ma ne metteva come aggregati di malavita. E vabbè, e poi gli zingari chiaramente sono sempre vissuti in raggruppamenti, e quindi era possibile metterli diciamo individuarli come classi pericolose. Si diceva, quelli intanto non lavorano, non sono dediti al furto, quindi da lì sicuramente escono fuori le classi pericolose. Uno dei primi testi che si trova perlomeno in questa è proprio del 1840 ed è francese. Beh, francese non è abbastanza comprensibile, perché in Francia è il posto dove per primo si struttura rigidamente un corpo sociale, un sistema di potere, uno Stato, quindi forse è il paese dove lo Stato assume questa forma di controllo sociale più che altrove. Nel mondo anglosassone l'assume lo stesso, ma con minore invasività, in Francia con maggiore invasività. E non a caso quindi il testo è francese, del 1840, che comincia individuare i malvagi, e vengono fuori questi malvagi, cioè gruppi sociali che, anche se non hanno ancora fatto niente, sono malvagi nel loro tenore di vita, nel loro muoversi, nel loro vivono sicuramente in ghetti. Considerate, nell'Ottocento le città erano abbastanza divise in ghetti, soprattutto quelle appunto dell'Europa, c'erano la città era proprio segmentata, molto più di adesso. C'era il quartiere operaio, erano tutti operai veramente, tranne qualche bottegai che vendevano ad uso di loro. C'era quello dei mercati, dei commercianti, c'era il quartiere appunto dei bassi fondi, poveri. Poi abbiamo letto tutti Victor Hugo, no? I Miserabili, ci racconta bene come funzionava Parigi. Probabilmente era abbastanza una, come dire, no? Forse il posto Parigi e Londra, però forse più Parigi aveva questa topologia, cioè il fatto che c'erano gruppi in ogni diciamo in ogni area della metropoli, c'erano gruppi sociali particolarmente diciamo particolari, appunto, e quindi individua la categoria dei malvagi. I malvagi hanno proprio, al di là di se fanno una violazione o non fanno la violazione, questo è secondario, viene dopo. Intanto sono quei gruppi sociali che comunque vivono in contrasto all'ordine sociale esistente, e quindi già si comincia a formare questi gruppi sociali che hanno, al di là di se facciano o non facciano qualcosa. Poi si passa, e perché questi studi dovevano servire e servivano a fare poi le leggi di pubblica sicurezza. Le leggi di pubblica sicurezza, che appunto le più vecchie sono proprio quelle francesi, hanno questa caratteristica che operano non tanto sul fatto che avviene, no? C'è una rapina e arrivano, c'è un reato e via, c'è un'aggressione e arrivano, o c'è un furto e no. Loro, le leggi di pubblica sicurezza sono volte tutte, perché poi per quello c'è il codice penale, è un'altra cosa, le leggi di pubblica sicurezza sono volte alla prevenzione del crimine. Prevenzione del crimine, che vuol dire devi individuare chi può essere, quale, da dove, chi può fare il reato domani, visto che siamo oggi. Ecco, quello è il discorso, una previsione di quelli che sono. E quindi c'è questo studio dei gruppi sociali, da cui può i malvagi, i perversi, cioè quelli che vivono comunque in situazioni non conformi all'ordine stabilito, all'ordine sociale, quindi sicuramente prima o poi faranno dei reati. A fianco a questa nasce una cosiddetta scienza, allora fu chiamata scienza, ma fai non ridire o ridere a seconda di come volete, e che si chiama la fisiopatologia, di cui noi conosciamo molto Cesare Lombroso, no? Quelli che cercano di dare anche una di individuare nella fisionomia del corpo, soprattutto del viso, del volto, ma anche del corpo delle persone, una predisposizione al crimine. Quindi nasce proprio questa, noi conosciamo Lombroso, però non è stato lui, cioè lui è stato uno, un cialtrone come gli altri, però ce ne stanno altri molto peggio, per esempio questo Giuseppe Zino, che molti italiani si sono, perché poi lo scambio Francia-Italia era molto, cioè tutta quell'area Francia-Italia-Germania-Svizzera, Nord Italia ci riferiamo, no? Quello, come dire, i cascami di quel positivismo appunto ottocentesco produce questi fatti qui. E quindi Fiampio Zino fa proprio un libro che si chiama La fisiopatologia del diritto. Ora, questa fisiopatologia, lo saprà chi ha fatto così, che ha ragionato un po' sul razzismo, è quella che poi è stata utilizzata anche da altri, Gobineau, sempre francesi, perché anche il razzismo purtroppo a quelle, non a caso nasce nello stato più centralizzato, più invasivo, più invadente, anche più coeso, quello francese, anche il razzismo nasce da lì. Non perché l'Inghilterra ne sia immune, né la Spagna, né altri grandi paesi che hanno prodotto razzismo in quanto colonialisti. Il colonialismo è già razzismo, è impossibile che esista il colonialismo senza razzismo. Apposta i paesi che anche oggi fanno colonizzano sono inevitabilmente razzisti. Ma, però appunto la teorizzazione è più che altro francese del razzismo. E questa categoria della fisiopatologia si applica appunto all'individuazione dei soggetti malvagi, quelli che potranno fare i reati, ed anche alle persone diverse da noi. Per esempio, una delle più spaventose, drammatiche, squallide produzioni della fisiopatologia è quella che individuava sempre nello stesso periodo il negro, come si diceva, l'ebreo, il levantino. Queste tre categorie vennero descritte dalla fisiopatologia del fine Ottocento e produssero i fascismi, i nazismi in maniera tremenda. Ed è fatta dalla misurazione prevalentemente del cranio, del viso, del naso, il naso adunco, il naso lungo, il naso largo, della bocca, delle orecchie, le orecchie lunghe, le orecchie grandi, no? Tutti gli elementi che la fisiopatologia attribuisce a persone appartenenti a gruppi sociali pericolosi, quindi potenzialmente pericolosi per l'ordine sociale. Il naso adunco, per esempio, veniva attribuito agli ebrei, e il naso adunco significava che quel soggetto era ebreo, quindi anche avaro, tirchio, non gli andava di lavorare, dedito alla vita sciabordata, così non ordinata, e così le orecchie larghe, quindi prevalentemente misurazioni delle caratteristiche del viso, del volto della persona per individuare i tratti della malvagità. Si individuano appunto queste caratteristiche, si individua il levantino, l'ebreo, il levantino era l'arabo sostanzialmente, è chiamato il levantino, l'ebreo, il negro, lo zingaro, e poi si individua anche l'omosessuale, come che tra queste caratteristiche che in quel delirio di fine Ottocento, dove nascono appunto i fascismi, i nazismi, i razzismi, i nazionalismi, che sono il portato di tutte queste porcherie, ogni nazionalismo ha in sé il razzismo, il fascismo, il nazismo, tutta questa robaccia qua, no? Lo sappiamo, e nascono appunto in quel periodo nell'area centroeuropea, l'area che va da Parigi a Vienna, in quel mondo lì nascono, lambisce purtroppo anche il nord Italia, l'area milanese, i cosiddetti il Cesare Lombroso è uno di questi, tra l'altro anche misurazioni del corpo, per esempio non so, il viso prevalentemente, però anche i piedi molto lunghi, altre parti del corpo particolarmente vengono individuate come identificazione di una situazione particolarmente pericolosa, cioè quelle persone, e sono stati scritti tantissimi definendoli ricerche con metodo clinico, ovviamente sono delle panzane inaudite, però su questo per tantissimo tempo hanno elaborato poi ne continueremo perché è un tema molto troppo importante, perché poi è nata pure un tentativo sempre coevo in quello stesso periodo, alla fine dell'Ottocento, di alcuni che hanno cominciavano a contestare queste baggianate assurde, il cui punto centrale era la fisiopatologia, cioè che alcuni tratti fisici portavano con sé una patologia, cioè un comportamento anomalo, patologico appunto, in contrasto con l'ordine che invece è sano per definizione, l'ordine sociale. Ecco, questo appunto ci torneremo, però per dire l'ultima cosa, quando una persona poi andava a finire davanti a un giudice, no? In quel periodo, perché aveva fatto una cosa, un furto, una rapina, lì dipendeva, lì secondo come eri fatto, come aveva fatto mamma, e dipendeva molto dalla condanna che prendevi, perché in quel momento il furto, mettiamo, era lo stesso, hai fatto lo stesso furto, la stessa rapina, lo stesso, diciamo, reato, una persona che non rispondeva a questi requisiti e una che invece rispondeva, mettiamo uno col naso ad unco, le orecchie grandi, la mascella pronunciata, i piedi lunghi, le mani, le braccia lunghe e così via, se andava di fronte al giudice un altro che aveva fatto la stessa cosa, invece era biondo, ben messo, caruccio, eccetera, ecco, il trattamento era completamente diverso, perché nel momento che aveva fatto un reato questi dicevano risponda a questi canoni, perché ci operavano i giudici su questi meccanismi qui, su questi trattati di fisiopatologia allucinante, questa cosa qui, che quindi questa persona ha fatto questo reato, ma noi non lo condanniamo per questo reato, ma perché lui è dedito a fare i reati, è una persona pericolosa, appartiene alle classi pericolose, attenta per la sua vita, è un attentato permanente all'ordine sociale, quindi pene infinite oppure cose ancora peggio. Ecco, questo è il meccanismo con cui poi si costruisce, perché adesso e per tutta la metà, fino alla metà del Novecento, quindi per un secolo, dalla metà dell'Ottocento, il primo testo abbiamo visto è 1840, perlomeno quello che compare qui, poi può darsi pure che ci siano delle ricerche più accurate che lo fanno arrivare pure prima, comunque dal positivismo, quell'area lì, dal 1840 i primi testi sui malvagi, sui gruppi sociali malvagi, e poi si arriva fino all'epoca fascista.